Ricordo ancora tutto come una vecchia storia di nobili plebei e feudatari, lontana come l'anima dal reo o il tempo da un pensiero che grida forte la sua identità e che non finirà come non può finire l'eterno. E invece di sprezzanti ideali di potere, di dollari, Mercedes e di stragi, di colpe, di campagne elettorali, misteri e criminale, si spiega con ben altre soluzioni che a quella gente là sulle poltrone stan sui coglioni. Ma cosa sto dicendo? Che razza di discorso? Possibile che ancora non me ne renda conto che quel che è stato e non c'è più riscontro tra quello che vorremmo e ciò a cui andiamo incontro. Tra vivere felici anche non proprio come vive e tante condizioni in cui si sopravvive e ancora tra paradisi di boschi, fiori e rivi e ozono, marmitte, diossina e detersivi. Io proprio non capisco il falso della gente e a tutti i costi vuole dimostrare, sfociando l'apparenza che conviene di essere gente bene e che in fondo non c'è poi gran differenza tra loro, l'avvocato, lo stilista o l'eminenza. E la televisione, libro sempre aperto, delle tangenti sa dirci quasi tutto, delle storie di famiglie puritane, di scandali e sottane, ma quel che è importante si è taciuto, non è occultamento di notizie, ma giornalismo muto. Ma di che sto parlando? Io me ne rendo conto che in fretta all'incontrario sta già girando il mondo, che ormai ogni valore ha già toccato il fondo e che ogni musicista, dicono, sia un parassita immondo. Ma allora a questo punto che cosa dovremmo dire? Noi che mitra e bombe non riusciamo a concepire, ci spiace che la gente costretta sia a subire, sperando almeno che chi è insoddisfatto ci stia a sentire.